pensava mai a un'altra bagasciona. Ti ha mollito e sa, ed è la suicida che te sempre punta a te. Vede già, basta che respira un day, day, day, ey, ey, woo! Una bagasciona. Tutti i miei amici sa, ma come la, che mi sciolto con una grande bagasciona. Pensa a me reputazione, a reputazione. Show now.